Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto da Francesco Galante, ma come già lo scorso appuntamento ritroviamo Gianluca Codognato dell'Adico. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. Oggi tocchiamo un argomento che già altre volte abbiamo raccontato, ma d'altronde sono questi i casi che capitano spesso e che quindi ovviamente coinvolgono l'ufficio dell'Adico per cercare di risolvere. Ed è l'ennesimo contratto stilato al telefono. Apparentemente crediamo di fare una cosa che ci va bene, pensiamo di farla con un operatore, invece poi scopriamo che abbiamo firmato, tra virgolette, al telefono un contratto con un'altra società, con altre disposizioni rispetto a quelle che credevamo. Sì, Francesco, infatti dici correttamente e credo che comunque molti ascoltatori si ritroveranno poi in questa storia che andiamo adesso a raccontare, assolutamente, perché è la storia di un pensionato, in questo caso un pensionato mestrino, che è stato proprio raggirato da operatori di un fornitore che si chiama Iren Spa, e che hanno chiamato appunto questo pensionato e spacciandosi per operatori Eni, quindi sono spacciati per un fornitore diverso da quello che era, insomma, alla fine. E purtroppo, come succede spesso in questi contratti telefonici, purtroppo alla fine il pensionato ha firmato, tra virgolette, ovviamente, accordato il contratto, fino a quando si è accorto che in realtà, insistendo e chiedendo insistentemente chi fossero, ha scoperto che non si trattava di Eni, ma di un'altra società. Quindi tramite noi chiederà immediatamente il recesso. Ecco, io ricordo che quando si fanno queste cose al telefono si hanno una quindicina di giorni per recedere, sì, no? Assolutamente. Però devi, in quei 15 giorni devi capire con chi sì, hai fatto il contratto, insomma. Hai detto bene, Francesco, poi c'è poco da fare, al di là di questa possibilità che, vabbè, poi non tutti conoscono, è proprio è il metodo, no, che non va, e questo è palese, insomma, anche perché ci pare che queste persone abbiano poi dei dati che non capiamo come facciano ad avere, perché anche questo pensionato ci racconta che queste persone che l'hanno chiamato, insomma, sapevano già alcune cose per quanto riguarda il proprio contratto. Quindi ci sono delle cose che ci lasciano davvero un po' perplesso, come ci lascia perplesso proprio la possibilità che esista ancora di fare questi contratti per via telefono. E noi abbiamo purtroppo, ti dico Francesco, tanti, soprattutto persone anziane, che ci raccontano di aver appunto aperto dei contratti, ma assolutamente avendo detto solo un sì per telefono, ma non sapendo probabilmente neanche chi fosse l'interlocutore. Ecco, quindi mi viene in mente una cosa che capita spesso, successa anche a me qualche tempo fa, di gente che passa per le case, magari per i condomini, riesce a farsi aprire il cancello, poi ti bussa alla porta, tu pensi che sia il vicino di casa che vuole il limone o lo zucchero, gli apri e ti iniziano a bombardare dicendoti: ma siamo dell'Enel, lei è Enel? Sì, ma tu gli rispondi: ci potrebbe far vedere una sua bolletta perché abbiamo un'offerta fantastica per farle risparmiare. Poi probabilmente ti rubano il codice identificativo e con quello mandano avanti delle pratiche per cui ti ritrovi ad aver sottoscritto qualcos'altro, insomma, no? È una casistica frequentissima questa, e purtroppo la vediamo sia per quanto riguarda gli operatori, i fornitori, quindi energia elettrica, gas, telefonia magari, ecco. Meno, però insomma anche loro, e noi abbiamo casi di cui abbiamo parlato già nel vostro programma, anche di venditori porta a porta, abbiamo casi veramente clamorosi, ecco, con 100 vetrine. Sì. Possiamo dire che se qualcuno ci chiede la bolletta di qualche cosa non fategliela mai vedere. Certo, sono degli accorgimenti chiari, no? Dei consigli, di consigli sì, che si danno a tutte le persone, però a volte ci si trova di fronte veramente a dei venditori, degli operatori molto furbi, ecco, questa è la verità, sì. Molto furbi, per cui anche persone che queste cose le sanno, insomma, vengono raggirate, perché veramente ci rendiamo conto che non è solo il pensionato, l'anziano, quello che viene raggirato da queste situazioni. Chiaramente la maggioranza delle persone sono anziane e pensionati, però anche tante persone, insomma, diciamo, tra virgolette, normali, che si fidano. Sembra brutto dire normali, però in realtà intendiamo dire anche persone che hanno certi ruoli professionali importanti, insomma, persone da cui non ti aspetteresti attentamente situazioni di questo genere, e invece devo dire che abbiamo persone un po' di tutti i tipi, quindi non voglio dire facciamoci complimenti agli operatori, a queste persone così furbe, però veramente sono bravi, ce lo confermano poi tutte le persone che vengono raggirate. Certo. Va bene, grazie a te Gianluca, chissà che le cose cambino e che l'Adico con il suo lavoro proficuo riesca, insomma, in qualche modo a cambiare questi modi, magari che ne so, ci vorrebbe una legge che garantisce ancora ulteriormente il consumatore. Grazie quindi, grazie all'Adico, grazie al prossimo appuntamento. Grazie. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.